Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Carlo, non solo abbiamo da ringraziare Walter per le citazioni letterarie in sede biblica, ma per essere ritornato alla console, perché non so se la volta scorsa gli ascoltatori hanno notato qualche leggera defiance nella conduzione. Beh, era il sapere tecnologico a nostra disposizione. Invece questa sera le cose sono nettamente diverse. Vi auguriamo una buona giornata, vi ringraziamo ovviamente per l'attenzione e la pazienza che ci dimostrate, presumibilmente sempre. Alla domenica prossima. Mi allegri che stasera ci sono i risultati elettorali.